Alza il sipario sui 103.1, la rubrica del venerdì, vigilia di weekend. Oggi ultimo giorno di maggio, inizia con uno spettacolo, poi avremo due rassegne, ma per quanto riguarda lo spettacolo da me selezionato per la serata odierna alle ore 21 a San Giorgio di Piano in sala Giulietta Masina, quindi avrete già intuito che si tratta dell'ottava edizione di Agorà. Agorà, l'importanza di un teatro nella nostra parte pianeggiante di provincia, che è fondamentale oltre che per la diffusione culturale anche per la presenza di quello che è uno spettacolo o una rassegna di spettacoli che porta un'attenzione all'intrattenimento, alla qualità, come ho già detto, all'aspetto culturale e anche a motivi di riflessione. Da voce a tutte, a tutti, in maniera intergenerazionale. E oggi, in chiusura alla rassegna ottava edizione di Agorà, avremo proprio questo aspetto. La curatela degli omini che già abbiamo conosciuto con la produzione di Sbucci. Appena non ho letto il comunicato stampa quando ho intervistato la drammaturga Giulia Zacchini, che sentiremo a breve per dare il via alla nostra conversazione e anticipare i contenuti dello spettacolo, ma con la parola Sbucci a me è venuto in mente le ginocchia sbucciate, i primi capitomboli, ecco, e così è stata una vaga intuizione. Poi leggo sottotitolo: si atterra sempre sui ginocchi. Purtroppo sì, prima caduta in bicicletta, prima caduta nelle corse, primi inciampi, e si atterra sempre sui ginocchi. Pare proprio di sì. Diverse carte geografiche sono rappresentate sulle ginocchia di noi da bambini, per quelle che sono state queste capriole che più volte non riuscivano alla perfezione. Ma non solo, diversi sono le accezioni per Sbucci, e lo sentiremo, come ho detto, da chi ha curato la drammaturgia, Giulia Zacchini, che avrà modo di portare ulteriore spiegazione e presentazione a questo spettacolo. Abbiamo già conosciuto la compagnia e il progetto Gli Omini, le loro indagini antropologiche. Sentiamo in questo caso a chi sono rivolte. Per quanto riguarda l'ottava edizione di Agorà, la stagione teatrale 2023-2024, siamo a San Giorgio di Piano, in sala Giulietta Masina. L'appuntamento è per venerdì 31 maggio alle ore 21 con Gli Omini, lo spettacolo intitolato semplicemente Sbucci. La drammaturgia è di Giulia Zacchini, che è qua al telefono con noi. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, bentrovati. Sbucci è un titolo molto particolare, mi dà l'idea delle ginocchia sbucciate, non so poi, queste sono intuizioni mie, ci puoi dire qualcosa di più? Ovviamente sì. Sì, sono intuizioni giuste, in effetti noi siamo partiti dagli sbucci, abbiamo proprio portato solo questa parola davanti ai bambini, che quindi prima hanno parlato di tutte le banane, le arance e anche le fragole a volte che si sbucciano. Poi per partire dai muri e le strade con l'alluvione, i rami per fare le frecce, fino ad arrivare sì alle ginocchia e ai gomiti, che sono i punti più colpiti, abbiamo scoperto, ci hanno insegnato così. E da lì poi in realtà abbiamo parlato degli sbucci, anche quelli più interni, quindi dagli sbucci fisici siamo passati a tutto quello che gli provoca del dolore dentro ai bambini. Quindi sono state conversazioni anche molto profonde e abbiamo tolto un po' di buccia, diciamo. Certo, vedi come sono rimasto a metà, non sono stato immediato innocente come un bambino che chiaramente vede la frutta buona e dolce, neanche però quello che è un aspetto di uno sbucciare in un inciampo più introspettivo. Sono rimasto così, a mezzo, per così dire, nello sbucciarsi in maniera superficiale. Come è nata questa idea e come si sviluppa, Giulia? Sono anni, dal 2006, che facciamo indagini in giro per l'Italia con gli adulti. Quest'anno c'è venuta voglia di partire un pochino più dalle radici, per sentire un po' meno luoghi comuni e andare più proprio al succo della questione, da quando si inizia a diventare così complicati come lo siamo noi. Steve Jansen, fratello di David Sylvia. Spettacolo per tutte e per tutti, trasversale, intergenerazionale, indagine antropologica per la compagnia, il progetto Gli Omini è filo conduttore per diverse rappresentazioni. Andare più in profondità con la giovane età sarà per questa sera in sala Giulietta Masina, venerdì 31 maggio alle ore 21 all'interno dell'ottava edizione della stagione teatrale di Agorà. Io sono arrivato un po' da adulto, adulto da un po' direi, alle ginocchia, ai gomiti se vogliamo, però sono tra l'aspetto introspettivo di un'anima che ha avuto una sbucciatura, una ferita, fino ad arrivare invece all'aspetto più ludico della frutta da sbucciare. Beh, ho sentito da sbucciare le fragole. Ah, vorrei sbucciare le fragole, una bella voglia. Comunque, detto ciò, di volta in volta è capitato anche di vedere chi sbuccia l'uva. Ecco, questi sono aspetti che mi lasciano un po' così. Però certamente, a bando a queste mie divagazioni, ognuno poi mangia come più pare e piace. Con Giulia Zacchini, drammaturga dello spettacolo Sbucci, siamo arrivati, oltre che dal contenuto in linea generale, per quanto riguarda la genesi e il perché di ricerca con i più giovani, ora parliamo di sviluppo dell'idea. Quindi si è sviluppato all'inizio a Prato, perché la prima tappa l'abbiamo fatta al Teatro Metastasio, ce l'ha prodotto il Teatro Metastasio, e lì abbiamo intervistato 297 bambini andando dentro le scuole. Insieme ad Agorà invece, e insieme anche all'associazione Uscire dal Guscio, siamo entrati nelle scuole in 4 classi, 2 di San Giorgio di Piano e 2 di Castelmaggiore, e poi abbiamo parlato con la squadra di rugbisti di Pieve, abbiamo parlato con i piccoli arcieri, siamo stati dentro la biblioteca di San Giorgio di Piano e lì abbiamo semplicemente parlato con i bambini, anzi specialmente li abbiamo ascoltati. In ogni classe in cui siamo stati siamo tornati 2 volte, quindi abbiamo anche potuto intervistare singolarmente quei bambini che ci avevano lasciato più curiosità di capire cosa c'era dietro alle loro parole, e abbiamo lasciato in ogni classe questa scatola con occhi e una fessura per bocca, dicendogli che avrebbero potuto mettere lì dentro tutto quello che non sono riusciti a dirci a voce. Le scatole sono tornate belle piene, immagino, a noi, piene di segni, ma anche grandi confessioni, anche cose che davvero non avevano detto in realtà poi a nessuno, e quindi questo ci ha riempito sia di una responsabilità che di un grande orgoglio nell'essere riusciti a essere così, a entrare in intimità con queste piccole creature. E la scatola è diventata poi in realtà per loro proprio un amico, essendo che ha delle sembianze un po' simili robot umane. In quasi tutte le classi l'hanno chiamato Bobby, e fatto sta che Bobby è diventato il protagonista del nostro spettacolo Sbucci. L'amico confessore anche. Sarà sì, il nostro capo, e ci dirà cosa fare, ecco. Dedichiamo a Bobby questa composizione dei Minotaur Shock, questo contenitore di pensieri che assomiglia un po' a un robot, con questi suoni a tratti metallici ma dotati anche di una fruibilità e una particolarità legata all'elettronica e al post rock. Loro sono Minotaur Shock. Concludere la conversazione con Giulia Zacchini per la drammaturgia di Sbucci questa sera alle ore 21 in sala Giulietta Masina a San Giorgio di Piano. Ricordo, l'ingresso è libero, la prenotazione è consigliata. È lo spettacolo che ho selezionato, a me affascina tantissimo questo contenuto, ci sarò. E a tal proposito ho voluto concludere anche con una mia riflessione. È una modalità di lavoro degli omini, quello dell'intersezione con un pubblico che si estende a qualsiasi maniera trasversale, in questo caso con un'età molto giovane, il titolo azzeccato, gli omini nella compagnia. Aggiungo anche un ultimo aspetto. Di cosa sono spaventati e di cosa sono attratti, senza svelare troppo, perché poi ci sarà lo spettacolo. Sull'attrazione c'è proprio una scena, che diciamo che è una delle scene madri, una delle più grandi attrazioni sono, purtroppo mi viene da dire, il tablet e il telefonino. Sì. Con dei picchi anche di momenti molto toccanti, nel senso che magari è l'unica cosa per cui vorrebbero diventare grandi è poter avere il telefonino. E questo però ci si rende conto che poi, semplicemente perché vedono questi adulti sempre con queste cose in mano, e si chiedono: ma lì dentro ci deve essere veramente qualcosa di spettacolare, perché non lo posso avere anch'io. E anche su questo però c'è sia attrazione sia tanta voglia di dire ai genitori: basta, state di più con noi e meno davanti a quello schermo. Quindi c'è anche delle proteste già in età di elementari. Per quello ciò che gli fa paura, ce n'è tantissime di cose che gli fanno paura, e oltre alla paura c'è anche tanta rabbia. Infatti è uno dei sentimenti su cui abbiamo lavorato di più, anche certo. La rabbia. Venerdì 31 maggio 2024, ovviamente alle ore 21, la stagione Agora, l'ottava edizione, in sala Giulietta Masina, in via Melloni a San Giorgio di Piano, Bologna, Sbucci con gli omini e la drammaturgia di Giulia Zacchini, che ringrazio tantissimo per questa anticipazione e ti auguro buona giornata. Grazie a te. Ciao. Questo è un disco tra elettronica, orchestrale, composizione contemporanea, molto moderno, molto pieno. Bobby Previte, batterista, compositore legato all'elettronica, alla produzione, in questa formazione estesa che vede la presenza di due nomi, uno Ned Rothenberg al clarinetto basso e al piano e all'organo Wayne Horowitz. Venerdì 31 maggio, ore 21, sala Giulietta Masina, via Melloni a San Giorgio di Piano, Sbucci, Curatela degli Omini, la drammaturgia di Giulia Zacchini, che ne ha data anticipazione per Radio Città Fujiko nella rubrica In Scena. Abbiamo spostato, posticipato leggermente la pubblicità per gli spazi ai tre movimenti, chiamiamoli così, per restare in tema musicale, per In Scena. Abbiamo iniziato con uno spettacolo, a breve avremo una rassegna, ma di primavera, dico ma per le condizioni meteorologiche, ma ovviamente auguro il meglio alla nuova edizione di Residenze di Primavera per quanto riguarda Teatri di Vita, tra pochissimo sui 103.1 In Scena.